cosa UFA. Funkhaus Europa. Radio Colonia. Benvenuti a Radio Colonia e Rosenmontag, che da una colonia in festa vi saluta Francesca Montinaro. Se ti sorprendi a ridere, solo tu sai perché. Come un contagio passa già da te a chi ti guarda. Libertà è un concetto semplice, se non rinunci al complicato, che sia per sé. Angela Merkel in Turchia per una linea comune sull'emergenza migranti, ma l'opposizione teme che la cancelliera ceda ai ricatti di Ankara, il tema. E intanto il dramma in Europa continua. Un gruppo di cittadini di Colonia è corso in aiuto dei migranti accampati sulle coste di Dunkerque, sul canale della Manica. Nella seconda parte gli appuntamenti e lo sport del lunedì con Adalberto Scemma. E intanto adesso a Radio Colonia c'è Giovanotti con Ragazza Magica. Ti ho visto ballare, puoi ridere di gusto senza malignità. La gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica e senza pietà. Questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare, che poi tanto buh, a me non mi piace. Io credo che invece il tempo è prezioso davvero un bel po'. Io quando ti guardo mi basta guardarti, è una bella notizia che porta allegria. Non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via. A forza di

L'obiettivo della visita ufficiale ad Ankara del capo del governo di Berlino è uno solo: frenare il flusso di profughi che dalla Turchia cercano di entrare nello spazio Schengen. Lo ha ribadito Merkel nel corso della conferenza stampa con il premier turco Davutoglu. Was sich jetzt an der türkisch-syrischen Grenze zeigt, das ist das wirklich große Elend und die Angst, die wirklich schwierige Situation der Flüchtlinge. Und deshalb haben wir auch angeboten und AFAD und das deutsche technische Hilfswerk werden hier zusammenarbeiten, dass Deutschland auch hier zur Seite steht, wenn es um die Versorgung von Flüchtlingen geht in dieser aktuellen und der neuen Lage. La nuova situazione di emergenza è rappresentata dai circa 35.000 siriani ammassati alla frontiera turco-siriana in attesa di entrare dopo essere fuggiti dai raid russi e dall'avanzata del regime di Bashar al-Assad nella provincia settentrionale di Aleppo, Fazil Ahmad. In questo momento la Turchia ha allestito dei campi nella parte siriana, immediatamente a ridosso della propria frontiera. Ieri il presidente Tayyip Erdogan ha detto che se necessario le frontiere saranno nuovamente aperte per permettere il passaggio dei profughi. Tra l'altro il ministro degli esteri turco Çavuşoğlu teneva anche a sottolineare sempre ieri che in Turchia arrivano al giorno 5.000 profughi. Inoltre si contano ogni giorno almeno 2.000 rifugiati che partono dalle coste occidentali turche diretti in Grecia. E poi va anche detto che accanto alle quotidiane partenze dei profughi ci sono anche continuamente dei naufragi. Solo adesso, qualche ora fa, una nuova notizia di un'imbarcazione affondata con 30 morti, di cui anche numerosi bambini. Per evitare le continue tragedie in mare e convincere la Turchia a tenere i profughi sul suo territorio, Merkel e Davutoglu hanno ribadito la comune volontà di migliorare il controllo delle coste, potenziando il ruolo dell'agenzia europea Frontex. L'UE inoltre ha già promesso al governo di Ankara un importante finanziamento. Questi 3 miliardi di euro, ancora oggi nella conferenza stampa non è stato annunciato un calendario su come e quando, ecco, verranno erogati questi fondi. Inoltre tanti osservatori, ma anche politici tedeschi come Sarah Wagenknecht della Linke, vedono nella Turchia non un alleato a cui affidarsi per fronteggiare la questione profughi, bensì una delle cause dell'emergenza siriana. Die Türkei ist faktisch eine indirekte Kriegspartei schon die ganze Zeit. Sie haben den IS unterstützt, sie unterstützen andere islamistische Rebellengruppen und sie tun etwas dafür, dass dieser Krieg immer weitergeht. Also die Türkei ist der falsche Partner. Solleva dei dubbi sul ruolo del governo turco nella guerra all'ISIS anche la giornalista Fazil Ahmad. Va a riguardo ricordato anche che due giornalisti del quotidiano Cumhuriyet sono stati incarcerati proprio per avere pubblicato delle notizie riguardo a dei tir che portavano delle armi in Siria. Infine resta l'annosa ed irrisolta questione dei curdi alleati degli Stati Uniti nella guerra all'ISIS in Siria, ma il governo turco continua a considerare il PKK, il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, un'organizzazione terroristica da combattere. Insomma, restano molti i nodi ed i dubbi irrisolti anche dopo la visita di Angela Merkel ad Ankara. Il servizio di Enzo Savignano. E ancora una notizia: la cancelliera Merkel ha lanciato precise accuse alla Russia, additandola come responsabile con i suoi raid aerei della nuova fuga in massa di cittadini dalla Siria. Oggi ha portato con sé un racconto che parla di te. Da quel giorno che il cielo era viola, che eri seduta lì, non sei più tornata. Sei stata di parola, non ti sei fermata, con il vento sei andata via da te, via da qui, via da tutto quello che intanto molto lontano da qui. così. Hai lasciato e ti chiedi chi hai amato. Non sei più tornata, sei stata di parola. Non ti sei voltata, con il vento sei andata. Via da te, via da qui, via dalla notte infinita. Ed una mattina sei uscita. Non sei più tornata, sei stata di parola. Non ti sei fermata, con il vento sei volata via da quel che non è giusto. Ad Ankara la cancelliera Angela Merkel cerca strategie per contenere l'ondata di migranti in Europa. Intanto nel nostro continente molti di loro si ammassano nelle località di frontiera in attesa di arrivare alla destinazione sognata. Vivono, o meglio sopravvivono, in condizioni drammatiche. In Francia, sul canale della Manica, oltre al grande accampamento di Calais, sempre sulla costa, a Dunkerque, sono accampati dai 2 ai 3.000 migranti. E lì qualche giorno fa è arrivato un gruppo di cittadini di Colonia che si è unito in un'iniziativa privata di aiuto. Di questo gruppo fa parte Sara Piras, che abbiamo raggiunto nel pomeriggio al telefono a Dunkerque e le abbiamo chiesto in che condizioni si trovi il campo profughi. Così ci ha risposto Sara. Ma non è un campo, è una piazza di fango con tante tende, tante donne e tanti bambini, a differenza di Calais, dove sono quasi esclusivamente uomini. Ecco, ricordiamo Dunkerque è a 50 chilometri circa est di Calais, giusto? Esatto, esatto. E quando siete arrivati lì a Dunkerque, che cosa avete trovato? Tanta rassegnazione a confronto dei rifugiati che arrivano a Colonia, in Germania, che sono pieni di speranza perché sanno di trovare qualcosa. Qua sono rassegnati perché non li vuole nessuno, non sono né arrivati né in partenza, devono combattere per la sopravvivenza esattamente come hanno fatto in Siria. La differenza è che qua non c'è la guerra. Ma come sopravvivono queste persone lì a Dunkerque? Attento, perché molti sono malati e le offerte di cibo non sono assolutamente sufficienti, esattamente come le offerte di vestiti e di medicinali, perché non nulla è permesso. In realtà questo campo non dovrebbe esistere, eppure. Però la gente vive in queste tende, la gente vive con le scarpe di gomma fino alle ginocchia. Io profondo è acqua e fango, quindi c'è una sporcizia incredibile ovunque. Naturalmente non c'è riscaldamento, di conseguenza devono anche sopportare. Non c'è l'elettricità e ci sono più o meno 20 bagni, ma proprio al massimo. Che cosa avete portato voi lì, Sara? Abbiamo portato soprattutto cose di prima necessità, come pantaloni, perché sono le cose che si sportano di più, sia per uomo che per donna. Tanta roba da mangiare, cose che si conservano, quindi pomodori in scatola, olio, riso, tanto tè, tante scarpe, che sono cose che purtroppo qua durano più o meno una settimana, durano le scarpe, tante giacche. La lista delle cose necessarie cambia tutti i giorni, ma le tende sono le cose, diciamo, più importanti, le tende e i sacchi a pelo, perché chiaramente i sacchi a pelo si bevono l'acqua come nulla fosse. Qua piove tanto spesso, il freddo è tanto, la notte fa tanto tanto freddo, e adesso per trovare un posto riparato dal vento mi è costato 10 minuti di cammino. Da dove vengono? A differenza di Calais, la gente di qua è soprattutto curda, quindi c'è stata questa separazione perché i curdi continuano a non andare d'accordo con il resto, quindi sono una minoranza e hanno dovuto separarsi. Se le persone che sono qua hanno la speranza che qualcuno li possa trasportare in modo illegale in Inghilterra. Loro sono qua perché volevano tutti andare in Inghilterra. L'Inghilterra non li vuole e quindi sono qua nella speranza che qualche trafficante di persone li faccia arrivare in Inghilterra. Ma questo campo è un campo tollerato dalle autorità? Assolutamente no. No, se la guardia fuori, la gendarmerie e la polizia, però questo non è un campo tollerato, questo è il motivo per il quale non è permesso portare nulla dentro che possa aiutare questa persona ad avere almeno uno standard di vita relativamente umano. Quindi di fatto voi state facendo una cosa che non è permessa dallo Stato francese. Aiutiamo come possiamo. Non è facile perché chiaramente si rompe una tenda, il primo istinto è quello di andare al prossimo supermercato e comprare una tenda. Nella nostra tasca non cambia niente, ma non è permesso. Quindi si tratta di raccoppare dei buchi in mente che comunque vengono strappati dal vento in un nulla. Che cosa farete voi adesso, Sara, fino a quando pensate di restare lì? E rimaniamo fino a martedì. Tutti i giorni la situazione cambia completamente. Chiaramente il fine settimana ci sono molte più persone disponibili ad aiutare e molte più persone che portano delle offerte. Oggi lunedì la situazione è completamente diversa, quasi non ci sono offerte e oggi si tratta soprattutto di ricostruire le cose che sono state distrutte dal vento, dalla tempesta. C'è stato anche qua un brutto temporale che non solo ha fatto aumentare il fango, ma chiaramente ha distrutto un sacco di tende. Adesso si tratta di prendere, di rastoffarle con lo scotto, delle pezze di plastica sopra, però non... Ci sono tante donne, tanti bambini che non escono fuori dalle tende e che quindi non sono neanche in grado di cercare aiuto. Grazie Sara Piras. Grazie. Essere uccelli ci vuole solo coraggio e voglia di andare, essere uomini ancora meno, soltanto anima e sale. Hanno voluto lasciarci andare su queste terre perdute, hanno rubato le nostre onde, ma noi qua giù a navigare, perché la notte non è di nessuno e neanche il mare. E se qui dentro c'è ancora qualcuno, sa per svegliarsi e gridare. Abbiamo avuto occhi per credere, mani per ricambiare, li abbiamo chiusi per voler cedere a un finto raggio di sole. C'è chi ha rubato il nostro bicchiere, gli ha sciolto le sue parole e abbiamo aperto le nostre bocche, ma con la sua stessa fame. Ci hanno costretto a restare soli per la paura di amare, ma finché avremo musica e vento saremo qui a navigare, perché la notte non è di nessuno e neanche il mare. E se qui dentro c'è ancora qualcuno, sta per svegliarsi e gridare. Sta per svegliarsi e gridare. Sta per svegliarsi e gridare. neanche il mare, perché la notte non è di nessuno e neanche il mare. Colonia. Le notizie del giorno. E questa è ancora l'attualità dell'8 febbraio, apriamo con la Germania. Continua il dibattito sul nuovo pacchetto di norme che mirano a riformare il diritto d'asilo in Germania. Nodo cruciale resta il ricongiungimento familiare, che non dovrebbe essere più automaticamente garantito e non sarebbero previste eccezioni per i migranti minorenni. La norma così contravverrebbe alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei minori. Intanto la CDU vuole limitare ulteriormente il diritto di soggiorno illimitato e concederlo solo dopo 5 anni di residenza e dopo aver verificato la conoscenza della lingua e della società tedesca, e purché il richiedente non abbia commesso crimini. E ancora una notizia dalla Germania. L'Agenzia per il Lavoro prevede che in futuro il mercato del lavoro tedesco sarà in grado di assorbire circa 350.000 migranti all'anno. In un'intervista il presidente Detlef Scheele ha affermato che ogni anno in Germania si creano circa 700.000 posti di lavoro e che i migranti sono troppo pochi per rappresentare una minaccia riguardo all'occupazione dei lavoratori tedeschi. Per Scheele però i nuovi arrivati non potranno, almeno a breve, risolvere il problema della carenza di manodopera specializzata in Germania. E passiamo all'estero. Le autorità per la sicurezza russe hanno arrestato 7 presunti membri della rete terroristica dello Stato Islamico. Il gruppo avrebbe messo a punto piani di attentati a Mosca, San Pietroburgo e nella regione degli Urali. Lo hanno confermato i servizi segreti interni di Mosca. Durante l'operazione di fermo nella città di Yekaterinburg sarebbe stato scoperto anche un laboratorio per la costruzione di esplosivi. Parte degli uomini arrestati sono di nazionalità russa, parte di loro proviene dalle ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale, mentre i capi del gruppo sarebbero arrivati dalla Turchia. E passiamo all'Italia. Nei prossimi giorni si vota al Senato sul disegno di legge sulle unioni civili. E resta la distanza tra i partiti. Il PD intende portare avanti la proposta senza stralciare l'articolo sulle adozioni da parte di coppie omosessuali. Ettore Rosato, capogruppo PD alla Camera. Finalmente faremo una legge sulle unioni civili, una legge che questo paese manca. Lo facciamo con la consapevolezza che bisogna trovare un punto di equilibrio, e il Parlamento lo farà, anche a prescindere di chi non si sa assumere le responsabilità. Il Partito Democratico lo sa fare e lo farà fino in fondo. Il riferimento è alle nuove posizioni del Movimento 5 Stelle. I grillini avevano inizialmente dato appoggio incondizionato al disegno di legge Cirinà, ma Grillo 2 giorni fa ha lasciato ai senatori libertà di coscienza sulla cosiddetta stepchild adoption. Dopo le polemiche seguite a questo dietrofront, Grillo si è giustificato, ricordando che inizialmente la bozza in discussione non conteneva riferimenti alle adozioni. Sarà Giuseppe Sala il candidato del centro-sinistra alle elezioni amministrative di Milano in programma a giugno. Il commissario dell'Expo, sostenuto a distanza dal premier Renzi, si è imposto alle primarie del centro-sinistra con circa il 42% dei favori sulla vice sindaca Francesca Balzani, sostenuta dall'attuale sindaco Giuliano Pisapia. E nonostante la sconfitta della sua candidata, Pisapia ha invitato a non disperdere le forze del centro-sinistra. Adesso non fermiamoci, parta al più presto i cantieri per il programma, un appuntamento a giugno in questa sala a festeggiare. E dietro a Sala e Balzani si è piazzato Pierfrancesco Maiorino e a grande distanza il volto nuovo Antonio Iannetta. E noi chiudiamo qui il notiziario. Radio Colonia, il tuo programma su Funkhaus Europa. Mi viene incontro la notte, quando cercavo di evitare l'impatto. Si dice porta consiglio, ma è solamente un altro sporco ricatto. Di quando andavo in vacanza, solo un vecchio ricordo abbandonato a sé.

letto. A mia volta ti apro la casa e ti trovi davanti un vampiro, che a mia volta devo succhiare tutto l'amore che riesco a rubare per me. La linea sottile fra baciare e mangiare, la linea sottile tra venire e partire, c'è una linea sottile fra star fermi e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? Una volta non smetto d'andare, anche se non si sa ancora dove. A mia volta invecchio alla svelta perché non rinuncio a una certa illusione. Una faccia che sembra destino ed un vecchio che torna bambino, e traguardi che sono partenze ed un tramonto che come un mattino. Per il cielo è un po' presto, per l'inferno non c'è posto, per qualcuno è solo l'antipasto. A mia volta mi lascio un po' stare e mi faccio un periodo di mare. A mia volta non è che mi cerco, che poi non si sa cosa posso trovare da me. La linea sottile fra il tuo bene e il tuo male, la linea sottile fra dormire e sognare, c'è una linea sottile fra tacere e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? Vuoi vedere che non è? Fra la noia e il bicchiere c'è una linea sottile, l'aspettare e scoppiare. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? La linea sottile fra baciare e mangiare, la linea sottile partire, c'è una linea sottile tra star fermi e subire. Cosa pensi di fare? Da che parte vuoi stare? Se vi interessa la storia italiana degli anni di piombo e della lotta alla mafia, non perdete l'appuntamento a Berlino con l'autrice di un libro che ricorda l'impegno del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso dal crimine organizzato negli anni Ottanta. All'incontro ci sarà anche Nando Dalla Chiesa, suo figlio, che noi intervisteremo nei prossimi giorni. Ma sentiamo di più da Angela Sinesi su questo e sugli altri appuntamenti della settimana. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Appuntamenti. Mercoledì a Berlino, nell'ambito della rassegna Nando Dalla Chiesa, la mafia nel cinema e nella letteratura visiva, verrà presentato il libro Tutti gli uomini del generale, la storia inedita della lotta al terrorismo. Il volume è una raccolta di testimonianze sull'operato di Carlo Alberto Dalla Chiesa, fatta dalla giornalista Fabiola Paterniti, attraverso incontri e colloqui con i carabinieri di ogni rango, componenti del suo nucleo. Saranno presenti alla presentazione Nando Dalla Chiesa, figlio di Carlo Alberto, e Fabiola Paterniti. Mercoledì alle 19 presso la libreria Mondolibro di Berlino. Giovedì in televisione potrete vedere il film di Ettore Scola, Brutti, Sporchi e Cattivi. Al centro della pellicola ci sono la periferia romana dei primi anni 70 e le sue baracche, raccontate impietosamente con tutte le loro miserie morali e materiali. Protagonista del film è Giacinto, il capofamiglia di origini pugliesi, guercio e dispotico, che tratta i suoi familiari come animali. Giacinto possiede 1 milione di lire, risarcimento dell'assicurazione per aver perso un occhio. L'uomo conserva gelosamente questo denaro ed è ossessionato dal fatto che qualcuno glielo possa rubare. Nel film Giacinto è interpretato da Nino Manfredi. Eppure stanotte ce l'avete provato, ladra mariole e disonesti. I soldi miei non si toccano. Voce che la calcio viva ma cercata era mia, eppure i soldi dell'assicurazione sono mie. Gli è chiaro? E se non è chiaro vi schiarisco la cervella con una fucilata. Parabutta pigliangulo. Questa è casa mia, frappicata con le mani mie, bandone su bandone. E voi ci abitate come all'albergo, a gratis. Brutti, sporchi e cattivi viene mandato in onda in tedesco a 00:35 su Arte. Venerdì a Berlino potrete vedere il Teatro delle Ombre per bambini di Veronica Compagnone. Lo spettacolo si intitola Federico ed è tratto da un libro di Leoni, Veronica Compagnone. Federico è uno spettacolo con la tecnica delle ombre cinesi, però colorate questa volta. È uno spettacolo per bambini dai 2 ai 5 anni ed è la storia di questo topolino che, a differenza di tutta la sua famiglia, si occupa, diciamo, di raccogliere le cose belle della vita, quindi il sole, i colori. E inizialmente la sua famiglia non lo capisce, lo incita a lavorare e poi però c'è un lieto fine per cui Federico verrà in qualche modo ricompensato, o meglio gli altri saranno ricompensati dalla sua poesia. Dopo lo spettacolo Veronica Compagnone offrirà ai bambini l'occasione di entrare in contatto con il Teatro delle Ombre con un workshop che ne spiegherà la tecnica e permetterà la realizzazione del proprio personaggio. Al termine i bambini avranno la possibilità di mettere in scena in piccoli gruppi delle scenette con le figure create da loro stessi. Venerdì alle 16:30 presso la libreria Mondo Libro di Berlino. E questa era solo una scelta dei principali appuntamenti italiani in Germania. La lista completa la trovate sul sito funkhauseuropa.de. Poi, scegliendo Sprachen, cliccate su Italiano. Sercio per amici San Pietrino, spero che ci fai caso quando mi passi vicino. Sopra di me la tua ragazza ieri ha rotto i tacchi, almeno te ne accorgi che ci sto quando m'acciacchi. Mi dai la colpa a me si scivoli col motorino, ma fammi un bel piacere quando esci via il trenino. Ma come noi te famo fare le meglio passeggiate, te invece va al comune chiedi quando li levate. Lo sai che c'è, noi su ste strade ci stavo da prima di te. Non siamo locchi Roma ha scelto per vedere, il sole, la luna, li baci, li impicci l'amore. C'è il sole, neve, piove o tira vento, a me mi trovi qua sto al posto mio, non me lamento. Io so quadrato, brutto, duro, nero e so tignoso, e se me lanci posso diventare pericoloso. Balla. A voi ve fanno largo, siete fatti col pennello, noi qua se pettinamo col martello e lo scarpello. Te stragli su di me quando hai bevuto troppo vino, guardami in faccia e sposta il piede, ciao San San Pietrino. Lo sai che c'è, noi su ste strade ci stavo da prima di te. Noi siamo locchi ha scelto per vedere. Noi siamo quelli che li vedi e non li guardi, che quando poi strilliamo fate finta di essere soli, ma te ne accorgi poi quando li perdi. Non si esauriscono le idee e le iniziative a Napoli per ricordare Pino Daniele anche a più di un anno dalla sua scomparsa. Oggi per esempio si inaugura la prima sala musicale di registrazione gratuita per giovani in Campania e porterà il suo nome. Mentre all'aeroporto di Capodichino presto potrete combattere la noia dell'attesa leggendo sugli schienali delle panchine versi delle sue canzoni più belle, da Yes I Know My Way, da Viente Terra e immancabili anche da Napolè. Napolè mille colore, Napolè mille paure, Napolè voce di creature che sai chiaro chiaro e tu sai che non si solo. Non si solo. Napolè non sola mai, Napolè adore mare, Napolè una carta sporca e nessuno se ne morto e ogni Napolè una camminata, vinte vica mie zallate. Napolè tutta non suona e a sabato tutto un, ma non sanno. Napolè mille cure, Napolè mille paure, Napolè una carta sporca, Napolè non sola mai. Napolè adore mare, Napolè tutto lo suona Napolè una camminata, vintevi con me. La dopo le mille cure. Funkhaus Europa. Europa. Funkhaus Europa. Lo sport. Pagina sportiva, Napoli e Juventus fanno ormai corsa a sé. Salgono a 8 le vittorie consecutive del Napoli, a 14 quelle della Juventus, e cresce naturalmente l'attesa per lo scontro diretto in programma a Torino sabato prossimo. E ne parliamo al telefono con il nostro collaboratore sportivo Adalberto Scemma, che saluto. Ciao Adalberto. Buonasera a te, come sempre agli amici sportivi. E qui Napoli e Juventus viaggiano decisamente a passo di record, perché il Napoli ha migliorato addirittura un primato che resisteva da 28 anni, era quindi l'epoca di Maradona. E qui, a proposito di Maradona, va detto anche che Higuaín ha battuto ieri anche un record di Diego, andando in gol per la sesta giornata di fila. Quindi è un Napoli ormai consapevole delle proprie qualità, un Napoli che sa gestire la pressione e che anche a Torino, credo io, perlomeno giocherà una partita offensiva. Farebbe un errore madornale Sarri se si limitasse a un gioco di rimessa, lasciando tutta l'iniziativa alla Juventus. E con un pareggio però il Napoli conserverebbe i 2 punti di vantaggio sulla Juve. Certo, è vero, però qui è una questione di DNA calcistico, cioè avremo di fronte sabato il migliore attacco del campionato, che è quello del Napoli, 53 gol, contro la migliore difesa, che è quella della Juve, sono 15 le reti subite. Però c'è di più, è della Juve il secondo miglior attacco, 45 reti, ed è del Napoli la seconda migliore difesa con 19 gol subiti. Beh, sono le cifre, quindi, a dire che Sarri ha tutto l'interesse a giocare in attacco, in attesa di un duello, quello tra Higuaín e Dybala, che avrà in ogni caso cadenze spettacolari. Però siamo a 13 giornate dal termine del campionato, quindi non è detto che la partita sia decisiva per la corsa allo scudetto, no? Beh, non è decisiva, però c'è un aspetto tecnico da analizzare, ma anche uno psicologico, perché a rischiare di più sabato è la Juventus, prima di tutto perché ha qualche problema contingente in difesa, sono gli infortuni di Chiellini e Cáceres, in secondo luogo perché una vittoria del Napoli farebbe salire a 5 punti di vantaggio più il punto di bonus che è dovuto alla superiorità negli scontri diretti. Quindi a inseguire in queste condizioni e con il dispendio energetico dovuto alla Champions che ricomincia può creare alla Juve evidenti problemi. Ecco, una sconfitta del Napoli invece, con un eventuale punto soltanto da recuperare in 12 giornate, poi non cambierebbe la situazione. Ecco perché dico io, Sarri ha tutto l'interesse ad attaccare. Adalberto, prendiamo ora in esame la zona Champions. Dopo l'arrivo di Spalletti è tornata in corsa la Roma. Come la vedi tu? Spalletti decisamente sta facendo un ottimo lavoro, un lavoro di assemblaggio. Questa è una Roma ancora un po' anarchica, bene Perotti, nuovissimo Benino, per ora è Sharawi, ma comunque in crescita. Beh, non crescono invece Fiorentina e Inter, e mancano di continuità sicuramente. L'Inter soprattutto ha evidenti problemi in difesa dopo i 3 gol. Tutti di testa, tutti su palle native che ha subito dal Verona. Di positivo, e qui Mancini dovrebbe però recitare un mea culpa a posteriori, c'è sicuramente il rientro di Icardi e Palacio, era coppia offensiva. Nella Fiorentina invece c'è in questo momento scarso feeling, sembra di capire, tra Paolo Sousa e Della Valle, frizioni per ora indecifrabili. Domenica comunque avremo lo scontro diretto in serata, Fiorentina-Inter a vantaggio della Roma, che gioca venerdì in anticipo a Carpi. E veniamo al Milan. Il Milan manca di continuità, ha perso ieri l'occasione per rientrare in gioco. Può ancora recuperare, secondo te? Ma il Milan intanto ha uno strano destino, perché come sappiamo basta un piccolo passo falso per far riesplodere le polemiche. Mihajlovic è il tecnico però che meglio di tutti sa lavorare con i giovani, e al momento ha una squadra però incompleta, cioè manca di un leader perché Montolivo non è tale, e poi in assenza di Bonaventura il Milan manca anche di fantasia. Mihajlovic utilizza per ora un 4-4-2 piuttosto scolastico, che però gli dà certe garanzie. Beh, in classifica però vediamo, è a 6 punti dalla Champions e a 2 dall'Europa League, quindi a 13 giornate dal termine direi che tutto è ancora possibile. E chiudiamo con il calcio, voltiamo pagina per commentare gli avvenimenti dell'ultimo weekend. Sabato il rugby con il 6 Nazioni, ieri la Fed Cup di tennis e il Super G olimpico di sci. Ci fai un bilancio? Beh, l'Italia del rugby ha perso dalla Francia dopo aver dato spettacolo, ha sfiorato l'impresa a Parigi, quindi bilancio molto positivo in ogni caso. Sono invece crollate inopinatamente la Errani e la Giorgi, sempre contro la Francia. Ma direi che l'Italia del tennis, senza la Pennetta e senza la Vinci, rischia addirittura la Serie B. molto bene in Hofer in Corea, è arrivato secondo nel Super G olimpico, è salito sul podio dopo 2 anni, a un mese direi dalle finali di Coppa del Mondo è a St. Moritz, l'Italia della velocità, ha 4 atleti addirittura nel primo gruppo, Paris, Phil, Innerhofer e Casse. Non era mai accaduto fino ad oggi. Ecco un cenno anche sulla pallavolo con Modena che ha vinto ieri per la 12ª volta la Coppa Italia battendo Trento per 3-0, davanti si giocava a Milano a 12.000 spettatori. Chiudo poi con l'atletica, Tamberi ha rivinto l'alto in Slovacchia a 2.33 dopo il record indoor di 3 giorni prima 2.35, è un segno di continuità e anche di maturità di questo ragazzo, va detto, decisamente inaspettato. Adalberto, grazie per i tuoi sempre precisi aggiornamenti sportivi del lunedì, ciao. Grazie ancora, buona serata a te e a tutti gli amici sportivi come sempre. E domani noi torniamo a parlare di sport con un'intervista a Roberto Boninsegna, gli appassionati sicuramente se lo ricorderanno, grande campione juventino e interista. Noi siamo in chiusura, la trasmissione di oggi è stata curata da Tommaso Pedicini che ringrazio, noi torniamo domani e vi aspettiamo, intanto a voi ancora una buona serata. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile, non ci sono spiegazioni, non ci sono spiegazioni, non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Nascondersi non serve, è questione sai di tempo, ci sorprende prima o poi. Orientalischer Elektro-Jazz aus Israel, Indie-Folk aus Kamerun, portugiesischer Fado und Bossa-Muffin aus Paris. Ende Februar steht Bonn im Zeichen der globalen Popmusik. Das Over the Border Festival bringt musikalische Grenzgänger an den Rhein, unter anderem mit Carminio, Flavia Coelho und Blik Bassi. Funkhaus Europa präsentiert das Over the Border Festival. Vom 25. bis zum 29. Februar in Bonn. Das Over the Border Festival. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.